benvenuti a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, siete sintonizzati sugli 87.9 in FM. Un saluto particolare va a tutti coloro e a tutte coloro sono private in questo momento della loro libertà personale. Bene, ci prepariamo per un inizio fine settimana di lotta contro ogni sgombero che invade questa città, non ultimo quello annunciato nei confronti della palestra popolare del nostro quartiere San Lorenzo, contro ogni pregiudizio razziale, contro il sessismo che regna sovrano in ambienti di lavoro e in ambienti familiari, che poi tanto familiari non sono, a favore della demilitarizzazione dei poteri forti, che sono forti solo con i più deboli, contro ogni restrizione, contro ogni forma di repressione, a favore della libertà, della giustizia, dell'uguaglianza fra popoli e persone. Dal basso continua la nostra rivoluzione, perché solo partendo dal basso la realtà si può cambiare, e questa è una certezza, perché i risultati di quelli che stanno in alto, più che risultati, sono dei fallimenti in tutti i sensi. Quindi, se siete d'accordo, sabato famo a capisse. E non abbiamo mai creduto alle loro promesse. Corteo che si svolgerà appunto sabato 9 aprile alle 16 a Larga Agosta, contro tutto ciò che viene svenduto quale patrimonio pubblico, che viene sgomberato in quanto patrimonio invece utile, ma secondo loro no. Quindi appuntamento alle 4 al corteo del 9 aprile a Largo Agosta a Roma. Successivamente, se non siete troppo stanchi, ma non lo sarete perché queste cose danno soltanto energia, c'è un appuntamento importante per sostenere la radio a Cagne Sciolte, via Ostiense 137, a sostegno appunto di Radio Onda Rossa, dalle 18, presentazione del libro Politiche dell'orgoglio, sessualità, soggettività e movimenti sociali. Ci sarà il curatore del libro, Massimo Prearo, e compagni di Profonda Rosa e compagne. Alle ore 21 ci sarà la cena sottoscrizione per la radio, e a seguire una dance hall, un po' di musica fatta, messa dai DJ di Radio Onda Rossa. Oggi tracce di cinema, più che altro tracce di David. Noi siamo felicissimi perché io sono rilassatissima, non ho preparato niente, non ho studiato, non ho fatto nulla oggi, proprio in panciolle, da paura, tutta musica che abbiamo già ascoltato ma che ci fa piacere farvi riascoltare, e speriamo farà piacere anche a voi riascoltare, di film che sono già passati, di cui abbiamo già parlato in queste frequenze, quindi non ne parleremo. Sentiremo la musica e poi continuerà la trasmissione oggi 2 ore. Ma spiegalo anche la selezione di oggi, a cosa ci prepara? Ci stiamo arrivando. E infatti la trasmissione oggi dura 2 ore perché arriverà fino alle 16 con Attica Blues, con il quale interagiremo per parlare di reggae e cinema, con due bellissimi film che vi consiglio di andare a rivedere se li avete visti tanto tempo fa e volete rifrescarvi la memoria: The Harder They Come e Rockers, due film sul reggae meravigliosi, molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi con una colonna sonora strepitosa, Jimmy Cliff, Peter Tosh, Gregory Isaac, che vi devo dire di più. E quindi cominciamo con The Best of Tracce di Cinema, e quindi tutti i brani presi come hai detto, da film che abbiamo già fatto, però con ho prediletto il blues e poi il reggae per arrivare. Quindi dai, ci scaldiamo un po' per la puntata reggae che seguirà con Attica Blues. Buon ascolto. My baby don't care. baby. My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. Baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me. Just Cares for Me di Nina Simone, bellissimo, e ci porta subito ad un altro brano blues. Ah, non l'ho detto, lo facciamo subito dopo, e poi lo dico anche per te. Should I let myself go in his direction? Is his love strong enough for my heart? Protection. Ooh, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But he loves me so good till I think I should. Oh, oh. Ooh, if I gave him my heart, would he refuse it? Questa è, l'abbiamo ascoltato, Ruth Brown, I Don't Know, e il film è Soul Kitchen. E infatti mi sono dimenticato di dire il film della canzone precedente, che era Io ballo da sola. No, Soul Kitchen è stato grazie a Soul Kitchen preparato per questa trasmissione che ho scoperto questo brano di Ruth Brown, che ora è nella mia compilation che mi porto sempre appresso. E anche nella mia, infatti anche l'abbiamo risuonata, perché è veramente meravigliosa. Adesso dove andiamo? Andiamo sempre rimaniamo nel blues, e questo pezzo è anche particolarmente strascinato. Thank you. I feel for you, baby, like a bomb. Now my love's gone up in flames. We're history, baby. It ended in the fire that started with a look. I fell for you, baby, like a bomb. Now my love's gone. dalla colonna sonora di Wild at Heart, Cuore Selvaggio, Up in Flames di Coco Taylor. Oh, Lynch ha una passione per la musica, e anche una musica tra i 50 e i 60 in particolare, vero David? Eh sì, decisamente. If you quest'ultimo brano era del film Godfellas, di precisamente di una cantante un po' sconosciuta, ovvero Aretha Franklin, e Baby I Love You. Oh, siamo entrati in ambito soul. Ci chiedevano con un SMS cosa c'entra un po' il blues con il reggae, David. Ma il blues, io direi che è alla base sia del rock che del reggae, no? Ma decisamente, ma comunque in realtà la mia scelta è stata proprio anche un po' tecnica, nel senso che brani reggae nei film passati ne abbiamo fatti pochi, e quindi potevo coprire soltanto un quarto d'ora o 20 minuti di trasmissione. E cosa c'è di meglio del blues per introdurre al reggae? Non lo so, non ho trovato di meglio. Sei andata a sensazioni, il che va benissimo. Ci sta, ci sta. All right. è sempre la colonna sonora di Soul Kitchen, ci ascoltiamo perché è proprio bellissimamente blues. Si può dire. Beh sì, no, Soul Kitchen è stata una delle puntate più ricche perché è una colonna sonora veramente piena. Il brano che abbiamo ascoltato era di Isley Brothers, It's Your Thing, e un altro brano di Soul Kitchen, ma vi mando perché sempre dal film Soul Kitchen, questa era Mungo Santa Maria con Get the Money. E adesso un brano fuori genere, ma su richiesta di Ottavia, perché dice che proprio gli piace tanto, se l'ascolta pure. Sì, e poi ci sta anche una parte un po' reggae, che però giustamente tu dici ragamuffin, che però mi sembrava che introduceva bene la parte finale delle tracce di David. Sicuramente. Perché introduce poi la nostra puntata sul reggae e il cinema, che continuerà con Attica Blues. Les enfants et les égarés sont comme des feuilles et l'écran leur offre l'encre de la violence à la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur. L'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient réalité et la réalité un cauchemar. C'est la 25e image, et ça de beau carnage. C'est la 25e image. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. C'est la 25e image, et ça vient de vos carnages. C'est la 25e image. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. Je suis les yeux rivés sont sur la télé, rien ne m'échappait. J'étais fasciné par les truands et la vie qu'ils menaient. Ils faisaient le mal, mais étaient toujours bien sapés, plein de femmes et tout ce qu'ils voulaient. Être méchant m'était facile. J'ai donc décidé d'avoir le premier rôle dans le scénario dont je rêvais. J'étais trop jeune pour comprendre où j'allais. Agir sans réfléchir, c'est exactement ce que je cherchais. Je sentais la puissance affluer en moi au fur et à mesure que je serrais le 45 entre mes doigts. Combien de fois l'ai-je sorti? De la plus grosse à la plus petite embrouille, je faisais parler mes douilles. Seulement je n'étais pas le seul nom à avoir pris une illusion pour une suggestion. Il fut plus rapide, putain c'était pas dans mon film. Il a coupé le fil, je tombe dans le vide. Il n'y a qu'un pas de la fiction à la réalité. J'en ai fait deux, puis je suis en train de crever. Je m'envole, mais mon corps reste au sol. Aveuglé par une image, j'ai choisi le mauvais rôle. C'est la 25ème image, elle s'inspire de vos camarades. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu cours le fil et rentre. C'est la 25ème image, elle s'inspire de vos camarades. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu cours le fil et rentre. Voyo, y'a l'air à la télévision. Voyo, la réalité dépasse la fiction. Voyo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis mais non. Voyo, y'a l'air à la télévision. Voyo, la réalité dépasse la fiction. Voyo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis mais non. Écoute l'histoire du jeune qu'on appelle Andy. Situation classique, il habite mort, c'est Yovitri. Tout le monde dit qu'il a quelque chose en lui. Qui vous dit, je suis taré, alors me fais pas d'envie. Tout ça est bien banal, mais sous l'effet de certains produits, il visionne ce qu'a fait ses fils, s'identifie. Hey, yeah, hey, c'est la panique dans la Tessie. Al Pacino a sorti son fusil. Si t'as vu la fin de film, tu sais comment ça finit. La vie est bien plus forte qu'un film de Fellini. Dis mais non. Voyo, y'a l'air à la télévision. Voyo, la réalité dépasse la fiction. Voyo, tâchons d'éviter vos confessions. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. You know. Viens ce rayonnement obscur. Quand un enfant s'assied devant sa télé, c'est un effet écran de fumée qui se développe dans sa tête loin de la vision réelle d'un humain. C'est fait du quotidien, mais est-ce la pensée du spectateur? Ici devient comme une victime de malin spectateur. La veille vierge ventile se tache de noir, absorbe la violence en l'instar d'un buvard. Flingue, viol et pulsion pour la création. Le vrai cauchemar en deux dimensions. Hollywood en état de choc et paniqué, braqué par des caractères. Un caractère et masque de fond de héros n'a rien à voir avec le stéréotype du quartier. Donc il est rejeté mais le mauvais bénéficie d'un respect facile à désirer quand on vit dans la pauvreté. Angoisse ténébreuse que désormais je vois face à la peur de l'anonymat. 24 images de scène violente, la 25ème sera réelle. C'est la 25ème image, et s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25ème image, et s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25ème image, et s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. La 25ème image dall'odio. E tutto è iniziato da qua, eh? Perché c'era il Banana che era ospite in questa puntata. Davide non c'era perché aveva da fare. E tutto è iniziato da qua. Queste puntate di Tracce di Cinema un po' così, tematiche, con degli ospiti che insomma sono un po' aperto anche gli occhi, no? Su questa appunto monoliticità del della nostra trasmissione, che è giusto che cambi. E questa io me la dedico, perché mi è piaciuta tanto questo pezzo. Grazie Davide, mi è piaciuto tantissimo, lo ascoltavo in macchina e son felice di averlo risentito in cuffia, e lo dedico anche al mio amico Leone, che è all'ascolto. Leone Sindaco. Listen up, everybody, the bottom line. I'm a black intellect, but I'm refined. We precision like the bullet, target bound. Just living like a hooker, the harlot sounds. Now, when I say the harlot, you know I need the hot heat of the equator, the club that's in the pot. Jalik, Jalik, you wind up, yeah. Drafting of the poets, I'm the number 7 pick. Licks, licks, licks, boy, when your backside. Licks, licks, licks, boy, when your backside. Listen to the beat of Shaheed, let it glide. Tip to everybody, heaven's on my side. Even in Santo Domingo, and I got a gringo. We got Mike's friend, Diego. Know a little nigga who can rhyme when you ask me. Short, dark, and plus his voice is fast. Like one for the trouble, two for the bass. You know the style trick, it's time to flip this. I like my beats hard like 2 day old shit. Steady eating booty MCs like cheese sticks. My man, I'll be sure he's in effect mode. Used to have a crush on Dawn from En Vogue. It's not like Honey Dip will wanna get with me, but just in case I own my condoms, then TLC. Now the formula is this, me tipping Ali. For those who can't count, it goes 1, 2, 3. The Instagram random. They make up, it's who I be. Brothers find it's hard to do, but never me. Some brothers try to dip for Malik. You see him bitching me, not care about them DBMC. My shit is hitting. Trini Gladiator, anti-hesitator. Shaheed push the fader, from here to Grenada. Mr. Energetic, who me sound pathetic. When's the last time you heard a funky diabetic? I don't know, man, I don't know, man, I don't know, man, I don't know, I don't know. Oh my God, yes, yeah. Oh my God, oh my God, yes, yeah. Oh my God, oh my God, yes, yeah. Oh my God. Complimentary of me, the 3 for poetry. I got a hump in the coming hook, line of sinker. The Timbo lifts with the prints on the ground. Timbo's on the toes, I like the way it's going down. Down like a lady of the evening. When it goes in, text, just believe it's in. Cause Queens is the county, Jamaica is the place. Take off your piece, but you can't win the race. Oh my God, yeah, oh my God. Oh my God, yeah, oh my God. Oh my God, yeah, oh my God. Questa l'ho infilata così al volo per rimanere sull'hip hop. E sai a chi la dedichiamo? A chi la dedichiamo? Al Banana. Beh, giusto. Che è sempre all'ascolto. Ciao, ciao Banana. Questi erano i Tribe Called Quest, il brano era Oh My God e il film Kids. E adesso cambiamo genere. Dalla colonna sonora di Natural Born Killers, questa era Ghost Town, che ci, così siamo entrati nel reggae e passiamo subito a un altro brano. Hey yo yo yo, Ian Delay, City Walks, das ist Hamburg und dieser Nation. Oh yeah, nehmen die Sound out, den gelben Sound auf, legen ja, dann drehen alle durch, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Nehmen die Sound out, den gelben Sound auf, den mit der Landen und alles in Lauf auf. Nehmen die Sound out, den gelben Sound auf, legen ja, dann boxen die Boxen, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Nehmen die Sound out, den gelben Sound auf, den mit der Landen und alles in Lauf auf. Die sehen dann alle, die in mir auch nicht alle sind. Alle die, die noch nicht in der Falle sind. Alle, die auf Rock Party machen. Kellern oder Bunkern oder ein Kasemann. Zu 100 sind in einem kleinen Raum. 60 Grad und ne Luft, da will keiner einen Baum. Nee, der Sound ist so laut, dass man sich nicht nach vorn traut. Sonst gehst du auf den Trommelfellen rum. Wir senden's in die Welt. Live und direkt aus der Schanze. Wenn City Walks am Set ist, Digga, ich hatte jeder Tanze. Wir senden's in die Welt, live und direkt aus dem Schanzenviertel. Wenn City Walks am Set ist und Jan Delay am Mic, ey, Digga, dann tanzen wir. Nehmen die Sound out, den gelben Sound auf, Digga, dann drehen alle durch, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Nehmen die Sound out, den gelben Sound auf, drehen mit der Landen und dann ist der Lauf auf. Sound auf den Kerl, dann boxen die Boxen, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Wenn die Sound auf den Kerl laut aufdrehen, wird der Langen, dann ist er auch aufgehen. Boxen, die Menge rockt mit. Wir heben ab und Silly Walks rockt im Cockpit. 2-12-10er und ein Mischpult, ein Steuerknüppel. Rot durch sie wie in Luftlöchern, die Leute schütteln. Beste Pumpen, ein wahres Bassmassaker. Ich sage Feuer, Feuer, aber kein Wasser da. Die Feuerwehr fragt, what the deal, ja. Das sind ja die Layer, mein Grund am Set sind Silly Walks. Wir senden's in die Welt. Live und direkt aus der Schanze. Wenn Silly Walks am Set ist, Digga, ich hatte jeder Tanze. Wir senden's in die Welt. Live und direkt aus dem Schanzenviertel. Wenn Silly Walks am Set ist und Jan Delay am Mic, Digga, dann tanzen wir. Nehmen die Sound out, den gelben Sound auf, Digga, dann drehen alle durch, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Nehmen die Sound out, Digga. E indovinate un po' un altro brano dal film Soul Kitchen, che proprio oggi, cioè, per fortuna ho attinto tanto perché è proprio bello. Che è un po' un miscuglio rock and blues, soul e anche reggaeggiante, come abbiamo ascoltato da questa traccia. Il gruppo si chiama Sound Adegen e sono tedeschi, se mi ricordo bene, certo si vede, si sente anche dal nome. E il brano si chiama Silly Walks Movement, ovvero la, il movimento di una camminata buffa, diciamo. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting hotter in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and he will guide you in this iration. It's Armageddon. Un grande classicone, Armageddon Time di Willie Williams, ed è, e l'abbiamo ascoltato nella colonna sonora del film Ghost Dog. Oh, questa è la versione originale. Io devo dire che ho conosciuto prima la cover dei Clash, che tra l'altro ha una versione estesa ben più lunga di questi due minuti e passa dell'originale. Morning. questo brano invece è la colonna, un altro brano, la colonna sonora dell'odio, era un certo signor Marley. Siamo arrivati addirittura a Bob Marley. Questo era il brano d'apertura del film, se non sbaglio. Esatto, sì, Burning and Looting. For we've been traveling more than 2,000 miles, more than 2,000 miles. Questi erano i grandi Burning Spears con Walking in Dub, e adesso in attesa di Pietro che deve arrivare, e non sappiamo bene che mettiamo, ti metto qualcosa. No, qualcosa dal che non verrà messa per mancanza di tempo nella trasmissione Tracce di Cinema, Attica Blues, che ospita Tracce di Cinema, ma non potremo mettere tutto. Ci soffermeremo in particolare su due film, ma di questi due film non potremmo mandare tutto in onda, quindi intanto ci ascoltiamo qualcosa che non ascolteremo dopo. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks get live in privacy. Anything him do, old nigga see. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can smoke him pipe in peace. Too much informers and too much beats. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can live in a tenement yard. Dreadlocks can live in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Skip, skip, ah, oh, oh, oh, oh. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Tu me sus, too much watchy-watchy-watch. Tu me sus, too much watchy-watchy-watch. Dreadlocks can penetrate the red man. All he might do is sell Jaja land. Too much watchy-watchy-watchy. Too much sus. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Dreadlocks get licking pipe in peace. Too much informers and too much BS. Too much watchy watchy watchy. Too much sus. Too much watchy watchy watchy. Too much sus. Can't hide the date in a tenement yard. Can't hide the date in a tenement yard. Dreadlocks can lick him pipe in peace. Too much Babylon and too much love. Too much a boogie bitty bar. Too much informer. È grande Jacob Miller con Tenement Yard. Ma l'anno di questa la lo sappiamo Luca di questo pezzo di Tenement Yard, che è un brano tra l'altro su fine anni 70, perché poi grazie poi a tutta l'epoca delle poste dei sound system durante i 90 è stato ripreso, e su quello poi siamo anche cresciuti noi che frequentavamo l'ambito. Beh sì, questo è proprio un tuffo nel passato. C'era una trasmissione proprio reggae qua alla radio, ma Pietro tu partecipavi a Dai pure te? No. Però ce n'erano diverse. Però Dai pure te era proprio la trasmissione reggae, la storia del reggae in radio il sabato pomeriggio.